volo a Z106. Che occhi tristi aveva lei. Poggio la testa sull'oblò e mentre l'autobus del cielo traversa un altro parallelo aspetto il sonno che non ho. Londra, Parigi, Amsterdam, in quante lingue le reclam. Da quand'è che non prendo un tram? Stanze d'albergo tutte uguali, solo in un letto a due guanciali, in mezzo a un mare di giornali. Lontano ma da dove? Mi canto mentalmente mentre volo senza scalo da niente a niente. Apro la mia 24 ore come un commesso viaggiatore, chiedendomi che senso ha smerciare idee di libertà quando fai debiti col sonno e assegni a vuoto con l'amore. Lontano ma da dove mi canto mentalmente mentre volo senza scalo da niente a niente. Un tè, signorina, grazie. No, no, senza zucchero, va bene così. Da dove mi canto mentalmente mentre volo senza scalo da niente a niente. Poi nelle luci della sera Roma stupenda pattumiera. Tenco mi passa per la gola, se invece della sua pistola avesse preso il passaporto, forse oggi non sarebbe morto. Lontano ma da dove scendiamo lentamente, chissà se stasera in teatro c'è gente.